Adesso pretende amore di loro. È gelosa, egoista, pigra, tirchia. Non so cosa dirti, ma quando mio marito c'è, lei fa finta di essere una santa. Ma quando siamo sola, lei mi dice la parolaccia. Troia, putana, carrogna. Meglio non dirlo. Ma anche la sua figlia non la vuole bene, non la sopporta. Controlla i soldi che mio marito spende. Ma nessuno dei suoi figli la portano a casa, solo mio marito l'ascolta. Vive con noi. Beve il vino e mangia come un jaguar. Dopo sta male. Uè, una strega. Grazie, non so come trattarla. Me stufo. Liliana. Grazie Liliana per averci scritto. Queste poche righe sono di una espressività linguistica meravigliosa e dipingono un interno familiare con la forza e la bellezza di un film neorealistico. La madre che regna nella sua poltrona, famelica, immortale, insensibile. Il figlio la rispetta, giustamente. Sarà vecchio anche lui se lei ha 90 anni. Però è la moglie che la sopporta. Mi ricorda una commedia argentina di Roberto Cossa del 1990, intitolata La nonna. La nonna piomba in questa famiglia e si mangia tutto. E la famiglia non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, ma neanche alla fine della settimana. E tutti sono costretti a mettersi a lavorare come pazzi per nutrire questa voracissima vecchia, la centenaria che divora tutto ciò che di mangiabile trova sotto mano. Mangia, mangia, mangia, finché si mangia anche la casa e forse anche... Ma non voglio dire il finale. Che farci, Liliana? Vuoi bene a tuo marito? Ma soprattutto lui te ne vuole? Pregalo di sollevarti un poco da questo peso e che si metta d'accordo con le sorelle, perché se ne prendono un po' anche loro, come giusto. Tu devi ottenere una libertà vigilata di qualche ora al giorno, che tu possa contare su una tregua, anche solo 2 ore. Una libertà vigilata che ti rischiarerebbe la vita, che ti dà poi la forza di affrontare il resto. Fra l'altro hai la sfortuna di vivere un'eccezione, perché in Italia di solito sono le figlie che si prendono cura dei vecchi genitori. Invece qui è il maschio, un caso, ripeto, raro. Il maschio che poi lo butta sulla moglie, ovvero tocca a te. E poi è un caso speciale, non è una buona vecchina, è una persona anaffettiva che non ha alcun rapporto con gli altri se non per soddisfare i propri bisogni. Perché non si trasformi in una tragedia, occorre un po' di santità domestica, ma non solo da parte tua. Ci siamo voluti molto bene con mio marito e amati con passione, ma poi sono accadute delle storie molto pesanti di tradimenti e sue bugie e io ho troncato di netto, senza figli. Per 2 anni proprio non ho voluto sapere niente di lui, ma non perché ero in collera, il contrario. Meno lo vedevo, più riuscivo a volergli bene, perché sono di carattere ottimista e mi venivano su tutti i ricordi più belli. Poi gli amici, le cognate, mio suocero si sono messi di mezzo, perché visto che abitavamo tutti e 2 soli, volevano farci tornare insieme. Abbiamo ceduto, ci siamo rivisti. È stata una grande delusione per tutti e 2. Ora sono sola come prima, ma anche triste. Perché la gente non si fa gli affari suoi? Io lo sapevo che mio marito era diventato un ometto, ma vederlo di faccia è stato come una ferita. Dio ci salvi dai messaggeri di pace. Da quelli che con passione di artisti vogliono per forza vedere insieme le persone, vogliono tenere insieme i matrimoni, perché loro sono affezionati a quel tipo di combinazione. Voi due in coppia piacevate, eravate per loro rassicuranti, eravate come il bar all'angolo o come quel piccolo laggiù che condisce il paesaggio. Sordi alla delicatezza più riposta dei vostri sentimenti, ecco che vi hanno tolto la nobile lontananza, il diritto, dopo la separazione, di ricostruire l'assente con i suoi panni migliori, questo trastullo del dolore che lo trasforma in pietà. Però voi siete state dei tordi a cascarci. Ma perché? Perché gli avete dato retta? Forse sarete stati anche un po' curiosi l'uno dell'altro. Mica sarete così fessi da farvi soltanto sospingere dai parenti. Perché in teoria siamo forti tutti. Quando ti piglia la nostalgia, dove la metti? Carissima Barbara, sono una ragazza che ha da poco compiuto 18 anni e mi sento stranissima. È per questo che ti sto scrivendo, per capire se è normale sentirsi così alla mia età. So essere allegra e divertente, mi piace ridere, scherzare, cantare, suonare, ma mi sento spesso a disagio tra le mie coetanee, a disagio in classe. Quasi tutti hanno questa idea di me. Una brava ragazza, dolce, paziente, calma, riservata. Eppure io mi sento nel bel mezzo di una tempesta, una continua ribellione silenziosa, una voglia matta di vivere veramente la vita, assaporandone ogni dettaglio. Ma perché mi sembra così difficile lasciarmi andare? Perché non riesco a trovare una vera amica? È normale che io stia spesso così ritirata in me stessa e che non apprezzi lo stile di vita delle mie compagne, fatto di discoteche, mille innamorati e incontri sui social network. Io non ho mai avuto un ragazzo, solo amori idealizzati. Sogno di diventare una scrittrice, di viaggiare e di aiutare le persone in difficoltà. Come faccio a diventare una vera adulta completa ed equilibrata e a realizzare i miei sogni se continuo a sentirmi un'estranea in mezzo alla gente? Come faccio ad essere un buon adulto se non ho saputo essere un adolescente normale? Chissà se riuscirò mai a scrollarmi via di dosso tutte queste insicurezze che mi impediscono di volare. Cuore in tempesta. Nella tua lettera Cuore in tempesta ripeti spesso una parola inquietante: normale. Ecco, io trovo veramente anormale la tua fissazione di volerlo essere. Ma quando mai a 18 anni il massimo delle aspirazioni è di diventare normali? A 18 anni di solito si sogna di diventare corsari o grandi amanti o di cambiare il mondo. A 18 anni si sogna di scoprire chi siamo e non di mettersi nella bara della normalità. Più che cuore in tempesta si direbbe cuore in freezer. E poi tu dici, sogno di diventare scrittrice. Ma no, non si sogna di diventare scrittrice, si scrive. Io ho l'impressione che tu sia una gran pigra. Dici che ti senti a disagio. Ah, lo credo. E che hai fatto finora per sentirti a tuo agio? Niente. Sei stata nascosta in un angolo. Ti sei chiusa. Ma la vita è ora. Se non provvedi ad agire e a muoverti, ti ritroverai ancora nell'angolo a 80 anni a interrogarti su di te. Guarda che mettersi in gioco e avere rapporti con gli altri è una grandissima fatica per tutti. È un gran lavoro stare al mondo. E non c'è tregua. Dalla nascita alla morte. Il 99% di noi umani ha paura. Ci sentiamo tutti diversi. Tu dici che vorresti viaggiare per aiutare la gente in difficoltà. Ma pensa per te, scusa, che sarebbe meglio. Ne hai molto bisogno. E ricordati che un equilibrio definitivo non è dato ai viventi. E che la vita si fabbrica istante per istante. E che ogni enigma ne contiene altri 100. Tu devi capire cosa vuoi fare, cosa sai fare e farlo. Non ti piace la vita che è intorno, non ti piacciono le discoteche, quello che fanno i tuoi coetanei, ma non è che ti sei inventata un'altra forma di vita. Vuoi fare la scrittrice? Ma a 18 anni dovresti avere i cassetti, gli armadi, i computer pieni di tentativi di scrittura. Io cito sempre la frase che mi scrisse questa ragazzina di terza media, Irene Ferraiuolo, che Dio la benedica dove si trova, quando insegnavo, e che da allora mi ha accompagnato sempre. Da oggi farò quello che voglio perché so che cosa voglio fare. E chiedo scusa se la ripeto ogni tanto, ma la trovo insuperabile. Se non agisci, diventerai una lagnosa solitaria con quell'insidioso, strisciante senso di superiorità che viene dall'isolamento e dal rifiuto, che poi è paura di misurarsi e di conoscersi. Però c'è un progresso. Che tu scriva a una sconosciuta in piena sincerità è un buonissimo segno. Il segno che forse hai fatto il primo passo fuori dalla tana. E ti ringrazio di averlo fatto per venire al faro. O amore, mio amore, se tu mi avessi amato, fermi come le stelle saremmo stati e ci saremmo mossi come si muove la luna, amorosa del mondo, se la sorte fosse stata buona con noi, e non lo è stata. Sì, lo so bene, se un giorno fossi stata mia, mia nel pulsare del sangue, mia nel respiro, non il tempo, che dice e nega, né tutte le cose forti ci avrebbero diviso allora, non tutte le cose terrene, non tutte quelle divine, non la gioia né il dolore, non la vita né la morte, mai più. Sarò amico delle rose. Questa poesia che ho letto altre volte dal Faro è tratta dal poemetto di Algernon Charles Swinburne, Il trionfo del tempo. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Oggi mi va proprio di parlare di Colette, che è stata una grande scrittrice francese e anche una grande persona. Il nome intero era Sidonie Gabrielle Colette. Era nata a Saint-Sauveur in Borgogna nel 1873 ed è morta a Parigi nel 1954. Colette diventerà uno dei grandi scandali della Francia, ma uno scandalo del talento, della libertà e con questa originalità irraggiungibile, perché non era mai premeditata. Lei descrive il suo paesino in Borgogna, a 200 km da Parigi, e in Claudina Lecollo descriverà così: delle case che ruzzolavano dalla sommità della collina fin giù nella valle. A casa di Colette c'è qualcosa di molto raro nelle biografie degli scrittori, ma nelle biografie di tutti alla fine. In famiglia si volevano bene e sapevano volere bene e non erano dei conformisti. I genitori erano due intelligenti, care persone che trasmisero alla figlia il senso della libertà e dell'affetto. Il padre si chiamava Julien Joseph Colette, era stato capitano degli Zuavi e aveva perso una gamba combattendo per Napoleone III quando non aveva ancora 30 anni. E c'erano delle belle leggende familiari su questo episodio, come quando Napoleone III va a salutare i soldati feriti e si ferma davanti a questo giovane soldato mutilato e gli chiede: cosa posso fare per voi? E il futuro capitano Colette risponde: niente, grazie, di medaglie me ne avete date fin troppe. Ma l'imperatore insiste: no, vi prego, ditemi cosa potrei procurarvi. E lui risponde: una stampella, maestà. Questo capitano Colette era un uomo imprudente, distratto, buono, dando a questa parola tutta la sua preziosa importanza. Era un uomo pieno di aspirazioni che non era riuscito a realizzarne neanche una. E in questo c'è un tratto poetico straziante, il suo rapporto con la scrittura. Il padre di Colette amava scrivere più di ogni altra cosa e teneva i suoi strumenti di scrittura in perfetto ordine: la penna, il calamaio, l'inchiostro. Il suo tavolo da lavoro era impeccabile. Nessuno era più meticoloso nel sistemare l'attrezzatura. E quando morì, lasciò le sue opere allineate, rilegate, più o meno corpose, con i titoli: Le mie campagne, il maresciallo MacMahon raccontato da un suo compagno d'arme, dal villaggio alla camera, una dozzina di volumi in tutto, lunghi dalle 150 alle 300 pagine. Dopo la sua morte, Colette apre questi libri e vede che le pagine sono tutte bianche. In verità il padre lascia alla figlia in eredità l'intenzione di un'opera, centinaia di pagine da riempire, e Colette ne riempirà migliaia. I'm learning about you, the things that no one else sees. La madre si chiamava Sidonie e sarà per tutta la vita la guida spirituale di Colette. Quando era ragazzina chiamava la figlia il mio sole. Era una donna che non usciva mai di casa e aveva una visione infallibilmente saggia e spregiudicata delle cose, e che anche rispetto agli amori di Colette non farà differenza quando si tratterà di uomini o di donne, avrà sempre presente la felicità della figlia. Ispirandosi a lei, Colette scriverà Sido e la nascita del giorno, basato sulle lettere della madre. Quelle che invece le aveva scritto Colette saranno bruciate dal fratello alla morte della madre. Non so se per rabbia, visto che Colette non era venuta a rivederla l'ultima volta, o forse perché era un diario tra i più sinceri, e forse le ha bruciate per la solita barbarie dei parenti che fanno sparire le tracce più significanti della vita dell'artista per paura di alimentare lo scandalo che d'altronde sempre accompagnò la sorella. Colette passa un'infanzia e un'adolescenza in piena libertà, in maniera veramente russoiana, nella natura, e per tutta la vita, finché potrà, sarà un atleta: nuoto, danza, equitazione, corsa. Secondo alcune fonti, Colette avrebbe avuto come titolo di studio soltanto la licenza elementare, altri dicono un diploma da maestra. A noi importa poco, quel che conta è che lei, non appena cominciò a leggere, ebbe libero accesso alla biblioteca di casa, una bella biblioteca fornita, e a 7 anni leggeva Shakespeare e Balzac. Non c'erano libri proibiti, i suoi genitori erano due illuministi naturali. Ed ecco che entra nella sua vita Willy, un uomo che sarà molto importante nella sua formazione e anche nella sua conquista della libertà. Quest'uomo si chiamava Willy Arrigo Tievillar ed era un vecchio amico della famiglia di Colette. E la vide crescere. E quando lei diventò una ragazza, dopo un fidanzamento epistolare, la chiese in sposa. Si dice che l'abbia fatto per gratitudine verso la famiglia, visto che Colette era senza dote. Però a vedere le foto di Colette a quei tempi, viene da pensare che si poteva sposarla non per gratitudine, ma perché era meravigliosa. Sarebbe stata la gioia di Nabokov. Era l'idea incarnata della Lolita, piccola, snella, con un vitino sottilissimo, queste trecce fino ai piedi, come dirà poi Colette, quei capelli lunghi quanto me stessa, e un che di malinconico, di febbrile in questi occhi, un visino insolente, e poi a sentirla parlare e a vedere anche gli scritti di allora, piena già di idee non convenzionali. Credo che la gratitudine c'entrasse poco. Cioè, una sera, mentre lui la riaccompagna a casa in carrozza, lei gli dice: «Morirò se non divento la tua amante». E come farà poi dire al suo personaggio più celebre, Claudine, avrei voluto essere sua figlia, la sua amica, avrei voluto essere sua moglie, tutto, tutto. Quindi c'era una passione. E poi anche lui, mica sarà stato cieco, quella ragazzina così appassionatamente intelligente, affascinante, lui che era un grande talent scout, doveva pure aver intuito qualcosa. La madre non ama Willy e non è affatto contenta del matrimonio, le dice: «Quest'uomo sarà la tua disgrazia». Si sposano, è il 1893. Colette ha 20 anni, ne dimostra 15. Willy aveva soltanto 14 anni più di lei, ma sembravano 40. Era un grosso uomo col barbone e nella più famosa delle foto di allora si vedono Colette e Willy insieme. Lui ha l'occhio crudele, i baffoni a manubrio, la barba, il cilindro. E lei si appoggia da dietro alla schiena di lui, abbandonata, a occhi chiusi, come una bambina cieca che si affidi al suo padrone. E in seguito scriverà: «Rassegniamoci a dire che se tante fanciulle mettono la mano nella zampa pelosa, porgono la bocca verso la convulsione ingorda di una bocca esasperata e guardano serenamente sul muro l'enorme ombra maschile di uno sconosciuto, è perché la curiosità sensuale sussurra loro dei consigli prepotenti». Chi è Willy? Allora, Willy è un personaggio interessante. È giornalista, scrittore, editore, un uomo iperattivo. Aveva un geniaccio arruffone come organizzatore e come editor. E aveva una piccola industria della scrittura. Si serviva di una schiera di ghostwriter di ottimo livello che scrivevano per lui e con la sua supervisione sfornava novelle, recensioni di eventi musicali teatrali, mischiando la critica alla mondanità, come poi si farà sempre. E aveva anche un talento pubblicitario applicato al culto della personalità, la sua. Metteva la sua foto e la sua firma dappertutto. Willy è un protagonista della Belle Époque, fiume di champagne. Anche se, come mi disse una volta Elsa De Giorgi, questa gran signora della letteratura, scrittrice dimenticata e potente, che fu il grande amore di Calvino, e che viaggiava in una 500 sgangherata, piena di oggetti di ogni tipo, e sul fondo rotolavano due bottiglie di champagne, che si portava sempre dietro. E una volta disse indignata, sentendo parlare dello champagne associato alla Belle Époque: «Ma quale Belle Époque? La Belle Époque è così volgare e chiassosa, non era degna dello champagne. Lo champagne era il vino di Luigi XV, degli illuministi, della Pompadour». Ciò non di meno Willy lo trincava impunemente. Queste sono testimonianze di loro due insieme. Quasi tutte le immagini, visive e verbali, che ritraggono Colette all'inizio della vita con Willy, rivelano una giovane donna dall'aria sottomessa con la testa china. Nessuno sembrava accorgersi dei suoi moti di collera. Il brillante critico Charles Morat la osservò con attenzione e scrisse: «Il basco sull'orecchio, la treccia che scendeva fino ai piedi». In realtà stava ascoltando la conversazione di Morat con alcuni amici scrittori senza farsene accorgere. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Scrive di sé Colette: «Stavo espiando la mia colpa di aver voluto essere il giocattolo di un uomo maturo». E per far capire quanto doveva essere interessante, ambigua, la giovane Colette, c'è questo famoso episodio in cui lei e Willy fanno l'amore sulla spiaggia, spiati dai bagnanti locali, e si sparge la voce che Willy aveva sedotto un mozzo. Lui passava per essere questo omone, ma lei lo nega. Lei dice non era grande, era rotondo, e dice che assomigliava alla regina Vittoria, che non è un gran complimento. La guardiana del faro. Stavo raccontando la vita di Colette e siamo nel periodo in cui è sposata con Willy, il suo padrone, il suo domatore, il suo maestro, il suo sfruttatore. Willy comunque la tradisce e lei lo scopre molto presto. Willy non ha ancora capito chi ha sposato e tratta la futura grande sovvertitrice come una povera mogliettina cornuta. A un certo punto Colette, che è rimasta terribilmente delusa dal matrimonio in quanto lui non la vede, non si occupa di lei minimamente, non ha appunto idea di chi ha accanto, a un certo punto ha una gravissima malattia tanto da rischiare la morte. Credo che fosse malata di mancanza di tenerezza, di mancanza di vera attenzione, ma dicono anche che fosse stata contagiata da lui una malattia venerea. Comunque se la cava con l'aiuto della madre e di grandi amici che vengono a trovarla, che al contrario di Willy hanno capito chi è lei. Il suo più grande consolatore è Marcel Schaub, questo scrittore formidabile, morto giovane. Se Willy non la vedeva, gli altri sì. Intanto lei dà dei quadernetti a Willy, dove ci sono delle storie di lei da scolara. E lui li legge, dice, ma non se ne può fare niente. E lei gli crede. Lei fa tutto quello che vuole lui. La grande libertà che si prenderà in seguito è ancora lontana. E forse vi ha una gran parte anche questo tirocino di schiavitù. Un suo biografo, Herbert Lotman, scrive, bisogna credere che solo Willy non si era accorto dello spirito ribelle che si nascondeva sotto quelle grandi trecce. Dopo la malattia, comunque, Willy la ingaggia nel suo gruppo di scrittori fantasma. E lei, senza firmare, scrive critiche teatrali e musicali, ma già con un piglio, con una prosa, una capacità di penetrazione e una sicurezza di giudizio sconvolgenti, facendo fare un figurone a Willy che li firma al posto suo. E scrive per lui anche per la Cocard, un giornale fra i più reazionari e violentemente antidreyfusiano. Le idee antisemite di Willy la dominano, tanto che parlando di Marcel Proust, che diventerà poi invece un ammiratore della scrittura di Colette, lei dice «Sono stata gentilmente braccata da un giovane intellettuale ebreuccio». E un'altra volta, quando lei sarà già famosa e un'attrice vuole troppi soldi, secondo lei, per essere ingaggiata, dice «Sarà un'ebreuccia che non ha voglia di lavarsi». Non c'entra nulla, però questa leggerezza tragica di questo antisemitismo buttato lì lo pagherà caro. Willy ha tante amanti e lei diventerà l'amante di una donna sotto l'occhio complice di Willy. Soltanto a un certo punto scoprirà che la sua amante è anche l'amante di Willy e quindi rompe con lei. E puntualmente anche questo sarà raccontato nei suoi libri, perché lei parlerà sempre delle sue storie. E poi la grande svolta. Willy, d'un tratto, gli vengono in mente questi quadernetti che gli aveva dato Colette sui suoi ricordi da scolara. Li apre e dice ma sono meravigliosi, la spinge ad accentuare l'aspetto erotico, ciò che lei farà molto volentieri, e nasce la serie delle Claudine. Claudine all'école, Claudine alla scuola, Claudine si sposa e finalmente Claudine s'en va, Claudine se ne va. E sarà uno dei più grandi successi editoriali di Francia. Ma sarà Willy a firmare questi libri. Presto le Claudine diventano teatro, è una commedia rappresentata con successo da questa giovane attrice che si chiama Polaire, e allora lui le fa vestire uguali, lei e Colette, creando l'impressione di un triangolo, che non c'è è un fatto puramente pubblicitario e addirittura per farle sembrare gemelle. Fra Colette e Willy c'è un rapporto che somiglia a quello di Gelsomina con Zampanò nella Strada di Fellini. Gelsomina interpretata da Giulietta Masina e Zampanò, questo giovane Anthony Quinn, questo zingaro nero, furente, spietato, che è il suo padrone, e pur tuttavia c'è una grande storia d'amore. Jean-Émile Blanche, parlando di loro, dirà: erano una triste coppia. E riguardando le foto di quel periodo di schiavitù, Colette dirà di sé: aveva un'espressione mezzo gentile e mezzo condannata, di cui mi vergogno un po'. Claudine è un grande affare per Willy, Colette è un grande affare per Willy, e Willy di Claudine ne farà un marchio, anticipando questa pessima abitudine moderna di serializzare un successo trasformandolo in gadget di ogni tipo. Ci sono cravatte, spille per i capelli, portaceneri, cappelli da monello che si chiamano Claudine, e a Parigi non c'è una sola casa chiusa dove manchi un adolescente dalle lunghe trecce con un basco di traverso che si fa chiamare Claudine, e costa molto, perché Claudine va di moda sotto ogni forma. E lo sfruttamento più beffardo che Willy farà di Claudine sarà nella frotta di ragazzine che, credendo che sia lui l'autore del libro, gli corrono dietro per andare a letto con lui, per ciò che ha scritto, senza sapere che l'ha scritto la moglie. Colette racconta che dalle tasche di Willy uscivano ritratti di minorenni in uniformi da collegiali e che molte andavano in pellegrinaggio fino a casa loro, e Willy, gentiluomo come sempre, si vanta che arrivavano spesso in coppia, una coppia di lesbiche, e che lui le riceveva in una garçonnière che aveva dovuto affittare apposta per far fronte a tutta quella richiesta. Jean Cocteau li descrive la loro coppia in intervista agli Champs-Élysées: Willy coi grossi baffi, l'occhio vivo sotto le pesanti palpebre. Poi Colette, una sorta di piccola volpe in abito da ciclista, una volpetta con la gonna, sull'occhio una ciocca nera annodata all'insù con un nastro rosso. E poi c'è una specie di epifania nella vita di Colette. Una notte Polaire, l'attrice che impersona Claudine a teatro, li chiama in aiuto, dice: correte presto perché il mio amante mi sta ammazzando di botte. Willy e Colette corrono da lei e Colette resta fulminata, ma non dalla violenza del giovane, dalla sua bellezza. Leggo da una testimonianza: Colette assistette a uno spettacolo nuovo per lei, l'amore nella sua giovinezza e brutalità, il torso nudo di un giovane uomo, i muscoli di un giovane uomo. Lei finora conosceva solo quell'armadio di Willy e si accorge che invidia terribilmente Polaire e si sente truffata, ma come vedremo poi col tempo si rifarà. Intanto la storia con Willy scricchiola, lei comincia a non poterne più, e nel 1904 pubblica a suo nome Il dialogo delle bestie. Siamo nel 1905 e la storia ormai è finita. Lui ha un'amante fissa, questa Meg, una ballerina inglese della quale sta cercando di fare un clone di Colette senza riuscirci. Finisce il matrimonio, cominciano le cause legali e in seguito Willy la perseguiterà. Come tutti gli ex papponi, non si rassegna al fatto di avere perso la sua rendita. Ed ecco un nuovo amore per Colette, una donna, Missy. Missy è la baronessa Mathilde de Morny, che non era fisicamente più attraente di Willy. Era un altro armadio, come lui, che si vestiva da uomo. Era nobile, ma sembrava un carrettiere. E anche lei, come Willy, ha soltanto 10 anni più di Colette, ma sembra che siano 30. E a vederla insieme, più che la sua amante, sembra il nonno di Colette. Al contrario di Willy, Missy è ricca, generosa ed è amorevole, e invece di rapinare i guadagni di Colette la sostiene e le fa avere un po' di respiro nella dannazione eterna che fu la vita di Colette: i soldi, la cronica mancanza di soldi, e le regala una bella villa in Normandia sulla riva del mare. E poi si accorge di lei, è innamorata di lei e non la considera soltanto una gallina dalle uova d'oro. E con Missy Colette reciterà al Moulin Rouge una pantomima che si intitola Sogno d'Egitto, dove c'è un signore che è Missy, come sempre vestita da uomo, un egittologo, mentre sta lì sui suoi papiri, ed ecco che una bella mummia esce dal sarcofago, che è Colette naturalmente, si libera danzando graziosamente delle sue bende, e fra loro c'è un'ardente scena di passione e hanno l'ardire di baciarsi in scena a lungo, con la lingua, come dicono i ragazzini. Il pubblico, possiamo immaginare, fischi, battute sconce, schiamazzi, mancava solo il lancio dei gatti morti alla romana. Insomma, dopo due sole rappresentazioni, le cacciano dal Moulin Rouge. Colette, dopo essere stata schiava evidentemente, si è presa il suo momento di grande, di evidente, di vivificante libertà. E diventa il primo scandalo di Parigi. E ancora più scandalosa viene considerata l'amicizia fra le due coppie, ovvero tra Willy Meg e Colette Missy, perché adesso che lei è libera poi si frequentano con Willy. E davanti a questi pettegolezzi è esemplare la risposta di Colette. Questo articolo dove parla maliziosamente appunto di questa intesa fra le due coppie, questo articolo attribuisce a me, a Willy, che è mio amico, alla marchesa e a me, e a questa simpatica e gentile ballerina inglese, che Willy chiama Meg, un'aria di losco falansterio. Non dovreste collegare così intimamente nella testa dei vostri numerosi lettori due coppie che hanno organizzato la loro vita nel modo più normale che io conosca, vale a dire come pare a loro. We used to be closer than this. We used to be closer than this. We used to get closer than this. Is it something you miss? Colette con Missy è serena. Ha questa buona donnona che si occupa di lei. E Colette diventa attrice di musical. Canta, balla, recita le cose che scrive, e scrive parlando di sé, e a teatro in persona se stessa. Concluderà la serie delle Claudine con l'ultimo libro dove fa morire il marito, che si chiama Renaud, ispirata a Willy, naturalmente, e vive, scrive e recita se stessa. Un circuito invidiabile. Grande catarsi e grande divertimento, è come un fiume che si rinnova sempre, altro che psicanalisi. Un flusso di vita armonioso con tutti i suoi urti, le ferite, i dolori terribili, che l'avvolge tutta. Come Casanova, Colette potrebbe dire: la mia vita è il mio argomento e il mio argomento è tutta la mia vita. Ma non si tratta di un narcisismo fastidioso, di quelli che annoiano. Questo occuparsi di sé di Colette non è un cerchio soffocante e chiuso, è un narcisismo felice, a spirale, comprende gli altri, è partecipazione e sale su come un anello di fumo, sale verso l'alto. Questo suo riferirsi sempre a sé ci coinvolge. La sua scrittura è fondata su una profondissima attenzione verso il prossimo, perché Colette sa volere bene, come sua madre Sidò, come suo padre, il capitano senza una gamba, con tutta la sua inarrivabile durezza. Gide paragonò il suo libro Cherie a un romanzo di Balzac, che era poi il suo maestro. E Willy, quando si sono già lasciati e già ci sono dei rapporti cordiali, ne combina un'altra. Sempre pieno di debiti, di sprechi, di conti che non tornano, vende per conto suo i diritti di Claudine, senza dare il becco di un quattrino a Colette. Colette continua a fare scandalo. A teatro si mostra nuda, mostra il suo bel corpo flessuoso che è diventato pieno, non è più quella magrissima ragazzina. Nella pièce La chair, cioè la carne, tutti aspettavano la scena clou quando il suo amante, accusandolo di adulterio, le strappa l'abito ed esce questo bel seno florido. A proposito della sua relazione d'amore con Missy e di altre storie con donne, si è fatto un gran parlare sul fatto Colette era lesbica, Colette non era lesbica. Io credo che lei non facesse nessuna differenza. Prendeva l'emozione dove la trovava. Lei era sinceramente lesbica e sinceramente etero di volta in volta, a seconda di chi riusciva a innamorarla. Da quando è cominciata la relazione con Missy, lei l'ha sempre tradita, però raccontandole doppia crudeltà. E Missy la accoglieva sempre con tenerezza, capiva, l'amava al di sopra di tutto. La guardiana del faro. Continuo a raccontarvi la storia di Colette, presa dalle sue innumerevoli opere, dai suoi innumerevoli amori. My heart is beating in a different way. Ecco, un amore troppo importante, con Henri de Jouvenel, uno degli uomini più affascinanti del suo tempo. Di grande casato, squattrinato, intelligentissimo, capacissimo, innamoratissimo, pieno di talento. E anche con lui ci sarà un'intensa collaborazione professionale, giornalistica, ma stavolta alla pari, non come con Willy. E poi Henri de Jouvenel ha un'altra qualità nuovissima per Colette. È bello, è veramente bello. È il bell'uomo che lei ha sognato da quando vide a torso nudo il violento amante di Polaire. Will you miss me? Colette e Henri si adorano, si sposano e lei con grande sorpresa rimane incinta. Ha una figlia a 39 anni, che allora era uno scandalo, come adesso a 60, e nasce Colette seconda. Ed è scoppiata intanto la Prima Guerra Mondiale. Henri viene richiamato a Verdun e Colette lo segue, sfidando i bombardamenti pur di stare con lui. Ma Henri è già lontano da lei. Anche lui la tradisce. Ripetizione. E Colette stavolta è profondamente offesa, perché aveva creduto in una grande alleanza. Ed è adesso, siamo intorno al 1920, che Colette scrive quello che viene considerato, credo a ragione, il suo libro più bello, Chérie. La storia fra Léa, una cortigiana d'alto bordo, e Chérie, un capolavoro di bellezza, figlio di un'altra cortigiana, amica nemica di Léa. Chérie ha 19 anni, Léa ne ha 47, che è l'età che ha esattamente Colette adesso. Chérie viene anche rappresentato a teatro, ed ecco che mentre tutti spettegolano su questa invenzione scandalosa, ecco che lo scandalo diventa vero. Nasce un grande amore tra Colette e il figlio di suo marito, Bertrand, che ha 17 anni. Ed ecco, Colette si trova a vivere nella realtà ciò che viene rappresentato sulla scena. Solo che nella vita le va molto meglio. Perché mentre Chérie è insopportabile, ha la mentalità della marchetta, è un animaletto bello e cattivo, non troppo intelligente, senza alcun senso dello humor, Bertrand invece è un capolavoro di intelligenza. È colto, è arguto, diventerà un grande studioso di antropologia ed è al suo primo amore. E la storia durerà come quella fra Léa e Chérie per 5 anni. Colette fa Chérie a teatro e Léa nella vita. Il marito intanto sta facendo una grande carriera politica ed ecco però vengono pubblicate delle foto di Colette quando si esibiva nuda e lui ne sarà danneggiato e dovrà rinunciare a una importante carica per lo scandalo che ne segue. Questo lo innervosisce parecchio, almeno quanto la relazione fra sua moglie e suo figlio. E nel 1923 ci sarà il divorzio. E qui finisce la parte avventurosa e vorticosa della vita di Colette. Quando ha 53 anni, incontra Maurice Goudéquet, che ne ha 36. E da ragazzo, leggendo un romanzo di Colette, aveva detto: «Se mai mi dovessi sposare, sarà soltanto con lei». Maurice Goudéquet è uno strano, simpatico personaggio che fa delle cose bislacche. Lo troviamo commerciante di perle, ma poi anche venditore di furetti, ma anche editore. E soprattutto è colui che dedicherà ciò che resta della sua vita a far felice Colette, traendone una felicità che non si consuma. Innamorato ma anche organizzatissimo per quanto riguarda gli affari di lei e la gestione della sua vita. E quindi Colette conosce per la prima volta l'amore come gioia costante, perché in fondo Missy era troppo sottomessa, con lui era un rapporto troppo materno. Qui c'è l'amore, l'amore sul quale contare, il compagno di giochi, di viaggi, di tutto, la grande ricompensa rispetto a Willy e alla ferita di Henri de Jouvenel. Lei continuava ad amare anche il marito infedele e forse lo stava provocando crudelmente. Lei e Maurice si sposano. È il 1936 e stanno insieme già da 11 anni. Colette ha già cominciato a soffrire molto malamente di artrite, dolorosissima, e lui è un infermiere perfetto, infinitamente divertito di curarsi di lei. Ed ecco la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista. Maurice, che è ebreo, viene arrestato e portato in campo di concentramento. Colette smuove il cielo e la terra per liberare il marito. E a chi si rivolge? Naturalmente a chi può aiutarla, ai collaborazionisti. Si compromette con loro, si crea degli obblighi. Maurice viene liberato, torna da lei, ma lei è sempre sotto ricatto perché in qualsiasi momento può essere di nuovo imprigionato e spedito magari in Germania. Io non voglio giustificare con questo il comportamento di Colette durante l'occupazione. Non basta che lei, per giustificarsi, dichiari con un po' di coda di paglia: il mio destino è la passività. Di fatto lei scriverà sui giornali filonazisti, anche se su argomenti mai politici, però non possiamo negare che ci sarà stata una parte di timore per Maurice e di obblighi che lei si era creata. Dopo la guerra lei non pagherà affatto questa sua ambiguità, anche perché la sua situazione era complessa: aveva il marito ebreo arrestato e la figlia, di cui lei si è curata pochissimo, diventa un'eroina della resistenza e si è buttata con generosità e coraggio nella guerra clandestina di liberazione. E comunque le piovono addosso gli onori. Ecco che cosa dice di lei Cocteau in questo periodo: vita di Colette, scandalo dopo scandalo, poi tutto cambia ed ecco entra a far parte della schiera degli idoli. Lei conclude la sua vita di pantomime e vecchie lesbiche in un'apoteosi di rispettabilità. È stata insignita della Legion d'Onore. Questo genere di premio viene concesso in extremis. Come ha ragione a opporre a ciò l'atteggiamento sopito di una talpa, mentre nei suoi occhi si intravede, come nel bagliore di un lampo, una profonda e calma ironia. Ahimè, in questa osservazione mascheratamente velenosa ci trovo persino dell'invidia da parte di Cocteau. Ed eccola, vecchia, con un'artrite terribile, immobilizzata. Sdraiata nel suo letto riceve il mondo intero, tra cui Truman Capote, che ne lasciò un bellissimo ritratto, ma lucidissima, fino all'ultimo con un gran fiuto da teatrante. Per esempio nel 1950 lei individua Audrey Hepburn come una possibile star, vede questa ragazzina e la designa come protagonista di Gigi, il suo racconto che diventerà un musical di Broadway. E poi muore come nel famoso apologo Zen, quando c'è un uomo che cade in un crepaccio e mentre pensano nel burrone aggrappato a un cespuglio che tra poco si staccherà, vede una fragola appena spuntata e pensa com'è bella. E così pare che Colette sia morta guardando gli uccelli fuori dalla finestra e dicendo a Maurice: li vedi? Fu la prima volta donna in Francia ad avere i funerali di Stato, e non fu certo la prima né l'ultima cui la Chiesa non concesse i funerali religiosi. Secondo me, per una volta, coerente la Chiesa. Con questa figlia lei ha avuto uno strano rapporto. Non riuscì senz'altro ad avere con lei il rapporto di amore perfetto che ebbe lei con sua madre. Ma la figlia, che curò impeccabilmente le sue opere dopo la morte, lascia su di lei dei giudizi che rivelano una grandezza non inferiore a quella di Colette, almeno come animo. Quello che ci entusiasma è che essa non appartenne mai alla norma dell'ordine umano. Essa comprese che vivere è permettersi di legarsi, di fuggire, di essere a volte umiliati e poi guarire, e accettare di essere, dopo tutto, soltanto una donna, e di non essere in grado di impedire a se stessi di sentirsi superiori a una gran quantità di uomini. È per quello che scrisse Gusto della durata. Ha saputo essere sola anche con un uomo accanto. Scrivere è sfuggire a quel tipo di solitudine. In you. Ciò che mi attira in Colette è la sua profonda essenza di artigiano, questo suo essere un artista totale, versato in molte cose, in fondo per lei equivalenti come soddisfazione artistica. Le saltava da una cosa all'altra. Per lei scrivere un libro o una commedia o recitare a teatro o fare l'uncinetto o la tappezzeria era ugualmente una grande gioia dell'espressione. Cocteau disse di lei: estranea all'intellettualismo della nostra epoca, se Madame Colette non è un mostro, non è niente. E un mostro lo era. Questo è un articolo di Liliana Rampello. Parla di questo Meridiano Mondadori che ripubblica Colette. Il Meridiano ha riaperto in me un'oscura questione che forse ho finalmente risolto, ovvero il piacere alterno ineguale che la lettura di Colette sempre mi procurava. Leggere Colette serve a capire la grandezza di una relazione che illumina, parla della relazione con la madre, che illumina di divino le piccole cose, il giardino, i fiori, i gatti. Dona l'alba e la scrittura, perché insegna a riconoscere lo straordinario nel quotidiano. Accoglie la vita nella sua necessità e nei suoi patimenti, lanciandola oltre le misure del già pensato. Ciò che più mi incanta in Colette è la gioia della sua rivolta, è la naturalezza. In una parola, l'innocenza. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way.